24 mattino. Rieccoci, è giunto il momento dei cani e dei gatti. 8, 18 minuti, 26 secondi, Radio 24. La silhouette scultorea di Oscar Giannino si affaccia fra Roma e Milano. Buongiorno Oscar. Buongiorno fratello e a tutti gli ascoltatori. Hai una notiziola per me? Una notiziola per te è che ti vedo oggi più bello che mai. Ah, e questo gli italiani devono sapere. Bello. No, perché secondo me Radio 24 ti sta imbellendo. Questo tu ecco. non vuoi ammetterlo, però ti sta imbellendo. Perché la verità è che avere a che fare con il nostro meraviglioso pubblico, che come vedi è molto libero, a ci volte rende di lingua belli. Ci rende belli. Io sono convinto che noi viviamo di luce riflessa, perché adesso può sembrare un giro di parole, ma i conduttori esistono solo grazie agli ascoltatori, non è il viceversa come molti sono convinti. Interattori. Vabbè, io avevo una notiziola per te. Lo sapevo. Sempre in questo ramo che a me piace dei soldi piccoli che diventano grandi, truffa parcometri, il messaggero. Mm-hmm. Tu dici, ma quanto avranno potuto truffare? Compensi soldi non raccolti. Fra l'altro il possessore, il proprietario della società, Pietro Tomassi, è un amico di Carminati. 15 milioni di euro, non è male, monetina dopo monetina. Monetina dopo monetina per vite normali, 15 milioni di euro sono tantissimi. Per chi invece sta in alto, no, ma per noi insomma che stiamo in basso, quindi... Per noi umani. Allora, a proposito di soldi piccoli che diventano grandi, è ospite con noi Alice Petralito, general manager di un sito, di un'applicazione, forse conoscete, Hostmaker, che come Airbnb sono quelle applicazioni con cui si affittano le case. Loro poi buongiorno. Buongiorno a voi. Spieghiamolo proprio in una parola come funziona. Voi siete di quelli che addirittura date anche il servizio, cioè uno vi dà la casa sequestrata, voi portate cose, servizi, sì, lenzuola. In un certo senso noi siamo il ramo operativo di tutti questi portali di prenotazione online, perché chiaramente i portali permettono al venditore, diciamo al proprietario di casa e al viaggiatore di incontrarsi, domanda e offerta, ma poi se non c'è qualcuno che si occupa praticamente di gestire l'ospite, il viaggiatore, di fatto è un po' come se si bloccasse un po' tutto il meccanismo. Quindi noi siamo la diramazione sul campo dei portali. Uno vi dà la casa, paga una percentuale e voi fate tutto. E noi facciamo tutto. Allora, ci interessa, perché con Oscar siamo molto affascinati da questo lato che viene chiamato, con un neologismo anglosassone, sharing economy. Sono i piccoli soldi che fanno girare le grandi economie. Per dare un'idea, voi avete, dove siete, il 5% del mercato, e solo a Roma avete prodotto quanti posti di lavoro? 42 in questo momento. Ma tutte queste persone che fa? Assunti? Assunti. Con contratto? Sì. Perché la differenza nostra rispetto a qualunque altro operatore grande o piccolo sul mercato è che noi non ci rivolgiamo a terzi, non subappaltiamo, ma assumiamo chiunque. Quindi, nel senso, chiunque debba svolgere una delle mansioni che noi offriamo, dei servizi che noi offriamo al pubblico, ai nostri clienti. Anche stabilizzati a tempo indeterminato? La maggior parte sono a tempo indeterminato. Ma qualcuno ci vuole un bel coraggio. Ecco, perché? Come mai li prendete? Devo dire che questa è una cosa che io amo dell'azienda per cui lavoro. Quindi Hostmaker, che è un'azienda di matrice inglese, anche se poi assume con ragione sociale italiana, quindi questo lo voglio ben sottolineare, non ci sono magagne dietro, anzi tutt'altro, perché è una startup finanziata a livello internazionale che crede molto nel valore del servizio che offre, crede e molto nel valore del lavoro. Quindi 800 24 0024 per chiamare, 349 238 6666. L'abbiamo chiamata qui perché cerchiamo qualcuno che ci dicesse, abbiamo discusso con Oscar, nella manovra si parla della cedolare secca, 10% di tasse per chi fa questo lavoro, che spesso sono privati, sono cittadini, sono madri, sorelle, mogli, padri che affittano pezzi, porzioni o anche intere case. Voi siete favorevoli o contrari? Noi siamo favorevoli, assolutamente. Come tutti i nostri clienti sono favorevoli. Beh, innanzitutto non ci occupiamo solo di intere case, non di porzioni di case. Perfetto. Io capisco che magari è così, però i nostri clienti, diciamo, sono persone che fanno altro nella vita, non vivono grazie a questo. Questo è un reddito integrativo che permette di mantenere l'immobile, di mantenerlo in buone condizioni o di integrare chiaramente il reddito familiare. Sono la maggior parte professionisti che vogliono assolutamente, sono nella loro vita ordinaria in regola con qualunque tipo di contribuzione, quindi vogliono esserlo anche in questo mercato. Anzi, chi veniva da noi qualche mese fa era preoccupato perché non c'era una chiarezza assoluta su come funzionasse il sistema delle tasse. Ora, con quindi una legge ben chiara, in alcuni casi si cumulava il reddito, sì, in altri comunque lo dichiaravano si pagava a fine anno e decidevano insieme al loro commercialista se pagarlo come cumulo IRPEF o se comunque optare per la cedolare secca secca che già in passato era possibile, anche se non così chiaro. Quindi oggi in realtà molti sono ancora più spinti verso questa strada perché sono più sereni nel sapere che c'è una soluzione chiara, una... sanno che devono fare i conti con quell'imposta, se per loro va bene allora prendono questa strada. La risata di Oscar. Sì, l'immagine è anche abbastanza ironica. No, ma io le faccio riflettere sul fatto che giustamente ha usato dei termini precisi che hanno a che fare con la psicologia. Sì. Le spiego. La psicologia qual è? Quella degli atterriti fiscali. Lei ha detto gli atterriti. No, ma parole testuali, perché io siccome coltivo la materia, per così dire, da anni. Lei ha detto: beh, certo, perché sono favorevole? Perché almeno con questa norma siamo tutti più sereni. Sai di che non ci dobbiamo preoccupare, perché è vero, noi le tasse le pagavamo prima, le mettevamo nel cumulo dei redditi, ma adesso però è meglio, no, lo Stato ci dice dateci il 10% subito, sostituto d'imposta, e noi alziamo le mani e diciamo prendilo, prendilo, non farci del male. Il tono è questo, cioè lei capisce, no, ma io non la dico per criticare, non lo dico affatto per criticare. No, beh, sono d'accordo, cioè, io penso sempre che c'è un misto tra il timore e l'etica, a credere, a metà. Che, visto che quello che altrimenti si spaccia è allora siete basati. Non è vero, perché naturalmente si pagano le imposte e si pagano qualunque reddito uno le deve pagare. Ma il punto è: il sostituto d'imposta a cosa serve? Serve allo Stato a dare certezza immediata flusso, del cassa. Flusso. Perché? Perché si responsabilizza, si obbliga facendo il sostituto d'imposta il soggetto a darlo in tempi, quantità certo, e a doversi organizzare di conseguenza, perché è anche un costo essere sostituto d'imposta. Detto tutto questo, lei capisce che per me, siccome questa nata come tassa su Airbnb finisce per gravare invece sugli intermediari italiani, gli oneri aggiuntivi gravano sugli intermediari italiani. Ecco, io ho dovuto prendere atto che per l'ennesima volta l'amministrazione tributaria italiana riesce a spacciare le sue esigenze di sete assoluta, perché questo è il meccanismo della cedolare, A, B, che sono regressive, perché una cedolare significa che non entra nel totale dell'imponibile, che si tassa in maniera progressiva, mentre così non è, ed è incredibile che uno Stato che si spaccia di sinistra riesce ogni volta a inventarsi una tassazione proporzionale flat che serve solo per giustificare le sue esigenze di cassa. E mi trovo i miei amici, tra virgolette, di sinistra, che inneggiano, e gli dico: ma guardate che state inneggiando al fatto che lo Stato, pur di averne pochi maledetti subito, sta facendo l'esatto contrario di quello di cui siete convinti, perché una cedolare secca proporzionale è antiprogressiva. Nel senso della progressività delle aliquote. Sì. Allora, Oscar, punto, e ho detto come la penso. Perché l'abbiamo detto un altro giorno, no? Questo è un addendum che devi fare. Cioè, tu pensi che queste famiglie, questi privati, queste persone che affittano la loro casa con l'intermediazione delle app, sì, di internet e tutto, non dovrebbero pagare nulla? No, io di dico tassa, che no? Quando quale dovrebbe essere la tassa giusta? Perché il 10% ma, è una tassa. Ma da dove pulita, nasce comunque questa cosa che non pagavano? Il problema è che prima si pagava sul totale delle imposte sul reddito realizzato nell'anno. Ripeto, e a quel punto, cioè, con aliquota progressiva. Adesso invece lo Stato, incalzato da chi si ritiene impropriamente, secondo me, leso da questo tipo di offerta, che è un'offerta aggiuntiva, non è un'offerta concorrente a quella degli alberghi, ecco, perché siamo parlando voglio di tutt'altro. Alice. Allora, invece lo Stato dice: a me basta che tu mi dai una cedolare secca, quindi proporzionale, non mi importa quanto guadagni nella vita, mi dimentico della progressività dell'articolo 53, purché però me li dai tutti e subito. Ecco, questa è la differenza. Allora, dice, proprio qui è il punto toccato da Oscar. Io non so quante volte mi capita di viaggiare per lavoro negli alberghi, gli imprenditori della locazione mi dicono: però questi ci fanno concorrenza, questi rastrellano una parte buona del mercato, seducono con l'idea delle foto, le casette e tutto, e poi ci fanno concorrenza a noi che abbiamo dei costi di gestione molto più alti. Cosa risponde? Ma io in effetti, venendo in proprio dal mondo dell'imprenditoria, posso capire chi ha una struttura con costi fissi di un certo tipo, altissimi assolutamente, e che quindi si sente in qualche modo minacciato. Però d'altra parte è sempre il consumatore che deve beneficiare, quindi una diversificazione dell'offerta è positiva sempre sul mercato. Non possiamo arrestare una progressione, soprattutto in una concorrenza Oscar che annuisce, cresce a livello internazionale. Esulta. Ma certo, perché questa è un'offerta non aggiuntiva e distinta, arrestare a caratteristiche di domanda e di offerta. Ma è oneroso quel mercato? La domanda proprio, avete mangiato dal mercato della locazione? Che sicuramente una piccola fetta di ospiti che arriva nelle case viene da un precedente esperienza di viaggi negli alberghi, però invece c'è una grandissima fetta che la maggior parte dei nostri ospiti, che sono famiglie, che col viaggio in albergo non potevano permettersi un'esperienza, è come voli low cost. Quindi oggi c'è la famiglia europea che viaggia con volo low cost e con l'appartamento e può portare dei bambini a Roma a vedere questa bellissima città, cosa che prima non poteva fare perché i costi erano inaccessibili per loro. Quindi in realtà si è allargato il mercato dei viaggiatori, una parte chiaramente di quelli che andavano in albergo ora vanno nelle case, ma molti sono nuovi viaggiatori, quindi non ha sottratto nulla a nessuno. E il popolo di Radio 24 reagisce subito. Stefano a Firenze viene da questa esperienza e cosa vuole dire? Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Una cosa semplicissima e molto sintetica: io ho aperto un bed and breakfast nel 2003, sono stato uno dei primi ad aprire a Montevarchi. Sa qual è il problema? Il problema è che le amministrazioni comunali, no, dato che la licenza del bed and breakfast è gratuita, esatto, e non prevede problema perché è un'attività extraalberghiera, l'hanno aperto tutti. Cosa è successo? Che in una realtà provinciale come Montevarchi o Arezzo il turismo è sempre il solito ogni anno, non è che si incrementa a livello esponenziale. Quindi cosa è successo? Che questi bed and breakfast, case vacanze, che non pagano IVA, non dovevano pagare IVA fino a 12 posti letto, ne sono sorti a decine, a centinaia, sottraendo purtroppo il lavoro alle attività serie, tipo gli alberghi, le pensioni o gli hotel. Questo è successo, cioè questa liberalizzazione di dare a tutti la possibilità di lavorare come bed and breakfast ha fatto in modo che molti bed and breakfast hanno chiuso, perché chiaramente sono di calare la fluenza. Ma se non lo dai a tutti, a chi lo devi dare? E mi trovo pericoloso quando si dice creiamo un mercato protetto, un mercato di oligarchi, di ottimati, di favoriti. Lei è d'accordo che debbano essere lì tutti? A parte che non è proprio così, nel senso che comunque ogni amministrazione comunale regolamenta il settore, quindi poi dipende da comune a comune come è stato deciso di regolamentare, quindi non è totalmente libero, però sì, è molto più facile rispetto a prima era un po' più stringente la normativa e il mondo va avanti, bisogna adeguarsi. Quindi anche magari chi ha messo in piedi un bed and breakfast come l'ascoltatore in diretta può magari un po' un attimo riconvertirsi, alleggerirsi determinati costi, cambiare tipo di licenza, insomma seguire quello che è il trend. Ma poi non c'è niente di più sbagliato di questa idea che il mercato sia fatto di fette di torte fisse, di una torta fissa. Cioè, se arriva qualcuno e propone una cosa, bisogna proibirlo, perché si mangia la torta che è mia. Allora, questa idea, che è l'antitesi del mercato, significa non aver ancora capito che cos'è. Il mercato è fatto della vita quotidiana e della scelta di milioni e milioni di persone. Cambia, evolve, è un organismo vivo, non è una torta fissa, può aumentare e diminuire a seconda delle qualità della domanda e dell'offerta. E devi far evolvere l'offerta interpretando la nuova domanda. Questo è il segmento di offerta di cui stiamo parlando oggi, per esempio, rispetto a quello alberghiero. Seconda osservazione. Il nostro interattore, esatto, che cosa diceva? Fanno concorrenza alle attività serie, quelle che hanno alti costi. Ecco, esatto, diminuire l'offerta innovativa, impedirla, ostacolarla in nome del teniamo la torta fissa a chi già se n'è garantito, per così dire, l'uso, significa non vedere il problema. Il problema è che le attività alberghiere, di ristoranti, una qualunque impresa in questo settore è gravata appunto di un eccesso di costi burocratici, amministrativi, fiscali e di compliance. Allora, invece di dire manteniamo tutto il mercato fermo a loro, via queste liberalizzazioni, l'ha detto con il tono così, come dire, mio Dio, gli untori, la peste, ecco, significa semplicemente confermare il fatto che ci beiamo del fatto che abbiamo i costi così elevati che il cliente alla fine, quando gli arriva la cosa da pagare, sono pochi quelli che se lo possono permettere. È il contrario il ragionamento che dobbiamo fare. Noi dobbiamo battere le mani a chi fa evolvere l'offerta per creare una domanda che altrimenti non si rivolgerebbe più ai costi che sono a loro offerti dall'offerta tradizionale, troppo gravata dallo Stato, dagli adempimenti e così via. Invece si crea un'offerta aggiuntiva che è più snella e bisogna battere le mani al fatto che sia più snella, non guardarla con preoccupazione, perché alla fine sennò il paese batte le mani al motivo per cui non cresce. E io sono molto preoccupato, perché io vedo che in questi anni è cresciuta la paura di dire teniamo tutto così com'è. La concessione balneare, tutta la vita al bagnino la deve tenere lui, neanche per idea, bisogna metterla gara. Allora, ecco Anna da Milano e fa proprio quell'esempio. Noi in cinque in albergo non ci potevamo proprio andare per i costi, ma anche perché in Italia non esistono alberghi con camere familiari. Esiste il rischio che ci sia qualche attività, diciamo, mascherata, che qualcuno sia quasi un albergo che si finge, diciamo, Airbnb o una forma di questo tipo? Beh, diciamo che tutto il mondo degli affittacamere o dei bed and breakfast, magari con 4-5 camere, ultimamente si sono spostati, hanno spostato la loro offerta anche sulle piattaforme dedicate alle case, come appunto Airbnb, perché hanno visto che c'è possibilità, certo, di intercettare un certo tipo di pubblico, ma non chiaramente le strutture più grandi. E nel vostro caso voi selezionate? Cioè, noi, sapete, sì, noi gestiamo comunque solo appartamenti. Privati. Appartamenti interi, solo da privati a privati tendenzialmente. Bene, quindi è un messaggio positivo per l'economia, quello che si sente di dare con la sua esperienza in imprenditoriale di questa. Beh, non voglio dire, anche per la mia precedente esperienza, che tutti i lacci, lacciuoli, gli impedimenti, i gravami che ci sono, che, di cui parlava Giannino, non esistono. Esistono assolutamente, però diciamo che una semplificazione è sempre d'aiuto. Ripeto, io ho percepito la sensazione dei miei clienti, che prima arrivavano più preoccupati, più spaventati dall'incertezza di quale fosse la tassazione. La certezza li rasserena e li fa andare avanti in maniera più tranquilla. Bene, grazie. Lei ha descritto la cellulare come il serenase o il veronale. Infatti sì, anch'io sono d'accordo. Cioè, una cosa che lo Stato ti dà, dice, ti levo la paura degli accertamenti. Paga, no, paga. No, non degli accertamenti. Loro hanno paura di non capire come pagare, cosa pagare. Come, evidente. Pubblicità, torniamo subito dov'è? Dopo, perché un altro ascoltatore vuole intervenire su questo. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. '24 mattino. Tanti messaggi, tante telefonate su questo tema che ovviamente divide, appassiona. Morena da Perugia, cosa vuoi dire? Buongiorno, pronto, buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Soprattutto a Oscar, diciamo. La pianta. Allora, io volevo dire semplicemente che nel settore della ricettività ci sono tantissime tasse, tantissime normative, l'HACCP per quanto riguarda gli alimenti, oppure la legge 627. Cos'è l'HACCP? Praticamente è un protocollo di igiene per prevenire che vengano contaminati gli alimenti che vengono poi cucinati, insomma. Certo. E quindi ci sono comunque dei corsi che devono fare ovviamente i gestori. Sì, l'antinfortunistica. Esatto, cosa che invece il bed and breakfast non ha di queste normative. E quindi lei cosa vuol dire? Fatto. Ci fanno concorrenza sleale, vuol dire questo? Oddio, proprio concorrenza sleale no, però adesso è facile iniziare così, senza tasse, senza normative, senza obblighi di legge, eccetera. Probabilmente fra qualche anno inventeranno qualche scuote altra... la testa, lei ha spiegato benissimo, allora risponda. Ci sono Alice. Meno vincoli, però perché lei dice senza tasse? No, adesso tasse no, perché ascoltavo la trasmissione e ci sono. Ma anche prima si pagavano le tasse. Oh, ma non è una nuova tassa, è una nuova regolamentazione, ma non è una nuova tassa. Le tasse si pagavano anche prima. E l'HACCP non c'è nelle case vacanze perché semplicemente non si somministrano alimenti. L'HACCP è legata al mondo alimentare. Però la 626... La 626 è la sicurezza sul lavoro, quello dipende chiaramente dall'impresa. Se l'impresa dei dipendenti si occupa di 626, ma altrimenti non capisco, c'è un'osservazione... parzialmente fuori luogo. Addirittura, bene. No, invece diamo voce, perché uno dice io ho investito tanti soldi, ho dovuto affrontare tante difficoltà, quando arriva in questa fase un concorrente nuovo, ovviamente sento, avverto questa concorrenza. È un punto di vista che hanno molti, quindi questo lo comprendo. Giusto riportarlo. Allora, avevamo un messaggio perfido che collega alla vicenda, dice praticamente fate la stessa attività che fanno gli spada ostia. Signori, non scherziamo, non diciamo che retinaggini su cose che sono violenti, feroci, crudeli. Paragonare un'attività di affitto di una casa o di Airbnb a una violenza. Però abbiamo questa stramberia, ci consente di collegarci al nostro ospite di oggi, che è, come sapete, è diventato l'uomo simbolo di questa inchiesta, Daniele Piervincenzi, l'uomo che è stato aggredito dal fratello del boss Spada. Buongiorno Daniele. È caduto proprio ora, può capitare. Allora sentiamo Spada, Luca, ma non da alla linea telefonica. Non alla linea. Luca da Siena. Sì, buongiorno. Sì. Allora, io Volevo, la signora giustamente ha contestato benissimo quello che ha detto il gestore di Bed and Breakfast. Io volevo fare un discorso a monte riguardo soprattutto l'evasione che c'è su questo settore. Questo è il grosso problema. Allora, partiamo dal fatto di uno come arriva sul mercato e come viene pagato. Spesso se lavora con i turisti, con l'estero viene pagato con PayPal. PayPal è il sistema di pagamento elettronico, sì, dove ti arrivano i soldi sulla tua carta PayPal che tu puoi tranquillamente rispendere al di fuori di buona parte di tutti i controlli fiscali che vengono fatti per comprarti il tuo bigliettero, per farti i tuoi acquisti online e tutto questo discorso qua. Questo è un problema generale, è il problema principale, l'evasione che c'è su questo settore qua. E non è con il 10% che si toglie l'evasione, secondo me. Un'altra problematica che bensì impedendo l'offerta, vero? Esatto. Una soluzione un po' estrema. No, perché se possono pagare, perché bisogna impedire l'offerta, Alice? Ma è corretto quello che il nostro ospite dice per quanto riguarda le PayPal, però ripeto, ora forse io avrò intercettato tutta una clientela che è assolutamente atipica, che comunque probabilmente è una goccia nel mare enorme di chi affitta appartamenti in Italia e nel mondo, però i nostri sono tutti pagamenti tracciati, tutti i trasferimenti bancari dal portale a noi e sì, da noi ai nostri clienti, 100%. Sono tutti virtuosi, tutti santi. No, allora poi se a valle sì, tutti sì, i nostri clienti pagano le tasse, io no, non lo posso assicurare, penso di sì, ma questo non lo so. Protocollo, loro perché noi fanno, grazie anche alla matrice inglese della nostra azienda, non accettiamo neanche l'idea di maneggiare contanti. Per esempio, il cliente che vuole pagare in contanti all'arrivo, noi non lo accettiamo, anche per non esporre i nostri collaboratori al rischio di dover portare in giro soldi. Siamo in un mondo evoluto, tutto dovrebbe potersi fare con la moneta virtuale, e invece continuiamo in Italia. Il grande problema dell'evasione nasce anche da questo continuo circolare Oscar di contanti. Giannino, ma Daniele, ciò che ha detto il nostro ascoltatore vale allora per tutti i lavori autonomi. Infatti spesso la grande attività di sediziosa divisione tra i contribuenti e i cittadini che lo Stato esercita e in cui i media cadono è esattamente volta a far credere questo. Perché, caro ascoltatore, quello che lei ha detto vale, io sono una partita IVA autonoma, allora è ovvio, io col compensi che ricevo posso, secondo lei, subito andarmi a comprare una prostituta thailandese ed evadere le tasse, perché più o meno questo è quello che ha detto. La risposta è no, cioè lo Stato è da decenni che ha potenziato ogni tipo possibile di controllo su quelli come me. Io rispondo, non solo ho tutti i miei dati bancari come tutti da oramai un anno e mezzo perfettamente accessibili all'apparato tributario, devo rispondere anche dei miei prelievi col bancomat. Cioè, lei se ne rende conto di vivere in un mondo dove ci sono queste regole? Certo. O potete credere di continuare a spacciare, perdonatemi, balle in cui cadete per primi se ve le raccontano? Giulio da Verona. Sì, buongiorno a lei. Io ho acceso da poco la radio, sì, per cui non ho sentito tutti gli interventi. Io sono rappresentante di categoria del settore ricettivo alberghiero. Sì. E ho sentito prima l'intervento di un ascoltatore, un'ascoltatrice, che diceva in realtà della concorrenza sleale. Non tanto nei bed and breakfast che sono stati, tra virgolette, obbligati nelle zone turistiche a dichiararsi imprenditoriali. Di chi? Ma in tante città turistiche oggi in Italia le nuove leggi regionali turistiche prevedono che ci sia l'imprenditorialità, perché non è più un'attività integrazione del reddito familiare, ma era evidente che era un'attività imprenditoriale. Quindi lei è soddisfatto ora di come la norma? No, perché no. In realtà il bed and breakfast oggi rappresenta un po' il passato, oggi il nuovo fronte sono le locazioni turistiche. Esatto, queste. E siamo qui con una rappresentante di un'applicazione Housemaker che si occupa proprio di questo. A lei non va bene? No, non è che non va bene. Allora, se il mercato ha delle regole, le regole devono valere per tutte. Io le parlo della realtà di Verona, che è una realtà turistica, ma potrei parlare di Venezia, certo, Firenze, Roma, Torino, Firenze, Milano o quant'altro. Non noi albergatori, ma l'ufficio tributi dei comuni, del nostro in particolare, ha determinato un'evasione media nel settore delle locazioni turistiche parliamo della tassa di soggiorno, attorno addirittura il 70-80%. Bene. Questo allora, che cosa vuol dire? No, sì, aggiungo, vale. La tassa di soggiorno è la punta dell'iceberg, perché chi non paga la tassa di soggiorno non registra gli ospiti, per cui in questo momento in cui credo il terrorismo... Perfetto, fa... e va tutto in nero, chiaro, chiaro, chiaro. Sia l'ospite sia il pagamento. E vuole rispondere Alice a questo e poi abbiamo recuperato Pier Vincenzi e mi scuso per lui l'attesa. Allora, per quanto riguarda la tassa di soggiorno, in realtà la normativa prevede che le locazioni turistiche non sono soggette a tassa di soggiorno, esatto. Quindi non si paga perché non è previsto. Esatto. A traballa, perdoni, se fosse mi perdoni, previsto, a traballa, cioè, si pagherebbe. È così. Cioè, le denunce è così. Alla questura noi le facciamo tutte, 100%. Se ogni tanto qualcuno dei nostri ragazzi che accoglie gli ospiti, magari alle 2 di notte, dimentica di prendere i dati di un solo ospite, l'indomani il proprietario ci fa neri perché vuole talmente tanto essere in regola con la denuncia, perché veramente il terrorismo rischia, è una minaccia, esatto. Allora, rischia, è l'unico rischi profilo tanto. Penale, quindi io proprio una vieto cosa su cui mi raccomando tantissimo sempre, non inizio un rapporto di collaborazione se il proprietario non fa tutta la trafila di richiesta alla questura delle credenziali per la registrazione sul portale online del Ministero. Grazie mille, chiarissimo. Daniele Piervincenzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto Luca, siamo buongiorno preoccupati, tutti. Io e Oscar, di sapere come stai dopo questa incredibile violenza che hai subito. La tua immagine ha fatto il giro dell'Italia. Sei stato anche eroico perché non c'è una lacrima, non c'è niente. Ci racconti quel momento, come l'hai vissuto tu? E ci dici anche come si chiama l'uomo che era il cameraman, che è stato bravissimo, secondo me, a continuare guarda, a filmare. L'eroico Edoardo Azzelbi, che non solo ha continuato a firmare, ma quando è stato aggredito dal gorilla di Roberto Spada, che non si vede nelle immagini, ma credimi, era spaventoso. Sì. Lui ha cioè, anche un gorilla più spaventoso, pur di non farsela strappare, prendendo, cioè esponendo il volto ai colpi di questo energumeno. Bravissimo. E un eroe, perché se l'è tenuta, non si è fatto strappare la telecamera, poi io sono riuscito a frappormi fra loro due. Evidentemente loro si sono scocciati di picchiarci e se ne sono rientrati, se ne sono tornati nella palestra di pugilato. Per fortuna non sono usciti i pugili. Meno male. Stai ricevendo male. Tanta solidarietà? Sì, vera, devo dire, che senti come vera? Tantissima. Ieri sera addirittura la telefonata del consigliere della stampa del Presidente della Repubblica, Gentiloni, l'attestato di stima di solidarietà di tantissimi colleghi, ma autentico, sai. Ti hanno fatto arrabbiare invece le voci di chi era solidale con Spada? No, perché tanto conosco quel territorio e so perfettamente che c'è un... ci sono tanti sodali. Spada, ecco, qual è il racconto di quel territorio? Se dovessi raccontare gli Spada che hai incontrato, conosciuto e indagato come giornalista, cosa è quel mondo? Quello là di Nuova Ostia, nello specifico di Piazza Gasparri, è un mondo molto particolare. Io ho raccontato la Sicilia, la Calabria, la Campania, e lì, non lo so, ti dirò una cosa un po' scomposta, ma lì in qualche modo te lo aspetti. Passami questa cosa, perché cioè, vabbè, esiste, invece sì. Siamo a 20 minuti da Roma, superata la Pineta e il Casal Palocco, che sembra i Parioli, ci sta Nuova Ostia, e Nuova Ostia è un mondo a parte. Com'è un questo mondo? Oscuro. Dacci tre lampi per raccontarlo. Allora, intanto sono tutte le sale cinesche di tutti gli esercizi commerciali sono tutte chiuse. Cioè l'inverno a Ostia è completamente, quella parte di Ostia è completamente abbandonata, ma è viva, cioè ci sono gli abitanti e sembrano degli spettri che si nascondono nelle loro case dopo che ci hanno picchiato. Io li vedevo lì sui balconi che si ritiravano, sai, sembravano le scene dei film o di un libro di Shasta, giorno della civetta con le tapparelle socchiuse che venivano tirate giù. Noi che chiedevamo aiuto e quelli ci dicevano ti sta bene, non tornare più a Piazza Gasparri. Cioè un mondo parallelo, sommerso ma spaventoso. Per quanto mi riguarda spaventoso lo dico da romano. E Oscar, è incredibile questo racconto, è bello questo passaggio da Casal Palocco, i giocatori della Roma, Trigoria, e si arriva, è l'Italia di oggi, è un'Italia a macchia di leopardo, è un'Italia dove il confine fra il bianco e il nero non esiste più, c'è un grigio che attraversa e cuce un tessuto slabbrato. Sì, che cuce e che va guardato in controluce, nel senso che a pochi decine di chilometri è completamente diverso, ed è così in molte parti d'Italia. E questo dovrebbe abbandonarci, per quelli che fanno informazione, a essere esattamente come Daniele, meno pigri, cioè le vecchie tipologie interpretative delle aree tipiche del controllo di legalità dell'Italia in realtà evolvono nel tempo molto più rapidamente, con fenomeni di pluralismo diversificato delle tipologie, che sono tra loro tutte, ci chiamano a fare il nostro mestiere in maniera diversa, secondo me, perché altrimenti si applicano cose uguali a situazioni che hanno storie e radici diverse. Una cosa è sicura, io ho riflettuto molto anche sulle 24 ore che lo Stato ha impiegato per decidere quale tipo di fattispecie penale dovesse applicare al signore esperto nei giochi di testa, per così dire, perché quel ritardo, e cioè la ricerca di una fattispecie che impedisse al fermo di diventare un provvedimento del tutto inutile, che veniva aggirato in 5 secondi, dà l'idea di uno Stato incapace di esercitare la propria legittima forza, con uno dei requisiti che però fa avvertire a chi sta lì se quella forza ci sia o meno: la rapidità e la certezza. Lo Stato in quelle 24 ore ha mostrato di non essere né rapido né sicuro delle sue stesse leggi. Però è arrivato, è arrivato. Per fortuna che è arrivato. Per fortuna. Daniele, avrai sentito ieri a Piazza Pulita da Formigli la difesa di Stefano, l'intervista molto imbarazzata del candidato di Casa Pound, che non riusciva a prendere la distanza dagli Spada, e la domanda che ti faccio è: ma cosa rispondi all'intervento del direttore di Tempi, che era lì, che diceva sì, però attenzione, è stato condannato il fratello, lui non è stato condannato, è un incensurato? Cosa rispondi? Perché noi ci siamo posti come ci si pone di fronte a un incensurato. Esatto. Le mie domande a Roberto Spada non sono mai state sul clan di cui fa parte il fratello, di cui si dice il fratello sia il boss. Le mie domande a Roberto Spada erano semplicemente politiche, anche un po' banali, se vogliamo. Cioè, io ho chiesto a Roberto Spada come si spiega, cioè, la sua spiegazione, volevo la sua spiegazione sul fatto che Casa Pound, in quella zona di Ostia, che è un quartiere anche multietnico, ha preso il 18%. Ha preso il 9% su tutto il territorio del decimo municipio. 18% lì. In quel quartiere specifico, cioè quello della Piazza Gasparri, in Nuova Ostia, il quartiere più difficile di Ostia e del decimo municipio, Casa Pound ha preso il 18%. Cercavo questo tipo di spiegazione, e forse è stata proprio questa la domanda che ha fatto arrabbiare. Inaspettatamente ha fatto, i messaggi, diciamo, che arrivano: carissimi, vivo a Ostia in un'altra zona e posso confermare che io stesso mi tengo lontano da Piazza Gasparri e dintorni, posso solo confermare tutto quello che ha detto il giornalista. Benvenuti nella Suburra. Ovviamente è sarcastico questo, eh? C'è anche chi difende, dice: ma che informazione era fare delle domande a Spada? È informazione, ma perché lì accade tutto, cari. Questo non lo capisco. Cosa vuol dire? Cioè, ieri da Giuseppe Crosciani c'era un avvocato cassazionista di Ostuni che ha scritto su Facebook: ah, caro giornalista, se vai lì da uno che gestisce la peste pugilato, gli fai domande a 5 centimetri, alla fine te la sei cercata. Ma come si può ragionare così? Cioè, a me fa un po' paura, però, Luca, il fatto che è l'Italia del te la sei cercata, ecco, però in che questi oggi anni unisce si è anche un sacerdote che ha detto a una 14enne, esatto, te la sei cercata. Si è liberato una certa istintività che prima non c'era. Molti hanno, per così dire, percepito nell'aria, nel dibattito pubblico del nostro paese, in chi lo anima, i politici, ma non solo, il fatto di lasciare libere queste. Daniele, cani in 30 rabbiosi. Secondi, regalaci l'ultimo lampo della tua cronaca, l'ultima immagine con cui vuoi raccontare questa Ostia che hai conosciuto. I messaggi di chi vive quella Ostia lì, cioè di chi viene da Piazza Gasparri, di chi abita Nuova Ostia, di quelli che hanno abbassato le tapparelle, hanno abbassate per paura, ma che hanno tanta voglia di rimettersi in piedi. Ostia viene da 2 anni di commissariamento per mafia, e il controllo di quelle famiglie che ha strangolato quei luoghi, ci sono tanti vogliono contrastarlo e tanti hanno volontà di uscire allo scoperto. Speriamo che il tuo lavoro sia anche questo, qualcosa che contribuisce a smuovere le coscienze. Allora ringraziamo Alice Pedralito, General Manager di Ostmaker. L'ultimo pensierino è sempre di Oscar. Allora, caro Sindaco Raggi, l'antitrust dice che non puoi tenere il servizio di trasporto pubblico all'attack in house, e quindi di fare una gara. Sono state raccolte delle firme e ti chiediamo di fare un referendum. Gara. Sindaco, ascolta. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.